di Gianni Ghetto, notte trombini. No, sono morto a fare un video per il fatto, l'ho fatto, non ho visto la sua mano portare, perché dice il campionista la faccio sempre. Quindi diciamo che qui è stata la giornata un po' lunghetta. Anche se qui stava a 7, io prima che sono andato qui. È stata lunga lo stesso perché ho fatto tutta la fila. Vabbè, non ci pensiamo. Comunque la mia intenzione è di fare una bella pescata. Adesso prendo il caso del tempo, se ne farà ancora, che vi sono se non mi si giudicano, ringrazio tutti per mettermi a posto, vi metto la vita in un mezzo e che ne sono a fare. Poi adesso non ci vuole andare, Franco, domani qua, e se no non me ne ha più niente. Qualcuno dice che non ce n'è, che non stanno prendendo, chi dice che invece ci sono qui e là, vabbè, vediamo, adesso domani ho il telefono, ho fatto il telefono, mi si sente il telefono, vuol dire se la scarico. Se andiamo, non se andiamo, ma se no, pazienza, vediamo qui fa. Quando ci saranno. Diciamo che fai il problema anche già, io ho un posto vagando per me. Che posto è, te lo faccio vedere io, dove c'è questa ricaravata. Ma se vieni, anche tu vieni, ho visto l'anno scorso, io c'è roba a calamare dall'anno scorso, e a me non mi piace. E a me non è la vita, non mi piace, quindi se tu vieni, a te la vita, anche tu dici, qui ce la vuoi. Vabbè, no, io beh, quando sono andato a Franco qualcosa abbiamo sempre preso, ma se bisogna vedere, se domani abbassa la temperatura, allora magari qualcosa già si prende, due settimane, boh, non so. Vabbè, vediamo. Domani hanno detto che se vieni nel pesciolino con specie della macchina fotografica, devi fare l'ama. Adesso vediamo, sono domenica, sono a pescare con Franco, adesso mi trovo la corona, vediamo un po', anche perché deve arrivare quella cosa che ho, quella nuova, è ancora, non è neanche armata. Va bene, va bene, sempre se il tempo è bello, se il tempo è bello, se il tempo è bello, magari ce lo faccio un sacco, se no se per prendere freddo, acqua, vento, se c'è mai fare fuoco non puoi andarci perché tutti i fumi di gambe brancarecci, uno lancia un altro all'acqua, è un casino. Poi quando vuoi bere, quando c'è il vento, quella pesca lì da fermo, la pesca più schifosa che c'è. Ci può essere freddo, ma basta, non ci sia il vento, se c'è il vento, mi scavolge a sotto, tanto le piscine di voi tutte le gambe, a due chili, fate un buco ammontonato, è un casino, fatti lancia sopra, va, boh, non so perché. Vabbè, adesso vediamo un po' domani, un po' con Franco, vediamo un po' cosa fa, se la giornata è bella, ti ripeto che si può andare, se va, se no, pazienza, avanti lì. Sinceramente non è una cosa che mi appassiona molto, voglio andare a calamare, via, a fare con la canna in mano, già va, beh, è una pesca che già mi piace, però pesca da fermo, vai, a latte così, a buttare, a aspettare, no? Non mi appassiona molto. Va bene, e poi di già. Io riprendo per salutare, adesso me ne vado a vedere che sono stato. Ci sentiamo, Flavio, ciao, anche a te, sì. Senti, avete l'ascolto del dottore, ho fatto il seguito pure, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, dai, ci sentiamo, domani, riprendere. Tenere la gente allora, qualche volta entrava anche un amico di Villa Cito a notte fonda, allora via a attaccare gli amplificatori e crepare antenne per quanto ce n'era per farci sentire. La gente c'era e quindi si parlava tutti assieme, tutti incorrettamente. Adesso invece è una presa per il culo praticamente. Sono tutti un po' spazio una parte all'altra, c'è quello che disturba, c'è quello che rompe le palle. Non si c'era, però non era così, anche se eravamo in tanti. Non era così, mi ricordo, insomma, si cercava di essere una cosa un po' particolare, anche se siamo in pochi, siamo quei pochi che però non cercano di fare furbi, ma furbi non lo sono, perché intanto prima o poi già vengono pizzicati. Avventura, divertimenti, tutto nuovo, veramente. tantissima gente, mi sono sempre divertito. Qualcuno era il periodo che erano un po', cioè c'era gente da domare, ma grazie a Dio già che si è domata la giura, io sono ancora qua e c'è molta gente sparita, perché sono un duro io. Sono fatto un po' di pietra, capito? Sono dotto, ma è difficile che mi abbatta. Quando ho qualcosa che devo fare, la faccio, non è una fottuta, se vinco e perdo, non è una fottuta. Quella gliel'ho fatta per io, Tino. La prima che aveva la venduta, questa la posso gliel'ho fatta per io. Solo quella là era un po' più spinta perché era modificata, l'avevo già fatta avere modificata, questa invece è normale. Sì, ce l'abbiamo qua. Lo stesso microfono e c'è la stessa radio, uguale. Adesso con quella non è molto prepotente come radio, ma la prima era una bomba, quella l'ho avuta io a casa più di tre anni, la usavo tutti i giorni, un po' alternavo con la mia e con quella, era di un tassista, Antonio De Venti. E poi Antonio si è stufato, perché io lo stufo, cioè non avevo potuto, perché era una via completa tipo questa. E quindi ce l'avevo sempre vicino, sai, con la roba ho sempre paura di romperla, di graffiarla e fare. E allora una volta c'è un vizio, gli ho detto, trasporta, ma ancora non mi dice, no, cosa mi vengo, mi ha venuta qui, là, è un casino, io ce la vendo voglio tanto. Ho detto, prova, se trovi qualcuno che ha i soldi, si rivale. E lì sono comprata a Tino la prima. Poi anche lui l'aveva venduta perché stava costruendo eccetera, quindi non aveva poco a tenerla a fare, e poi come ha finito la casa se l'ha ripresa qua. Questa canale non ne ha, questa c'è una manopola che gira sempre. Canali 10.000. Quella di Luigi, quella nuova che aveva preso? Sì, quella l'ho comprata io a Luigi, l'ho presa io a Luigi, c'è anche quella. Uguali sono, amico. Io ho quella lì, quella del Ciattino e un'altra, ne ho tre, uguali. Sono simili, però sono diversi, vai. Sono diversi. Però sono sempre di quella categoria lì, comunque no, io il baracchino ce l'ho già, lo vedo ogni tanto, lo accendo, lo faccio, lo uso, però non mi attira, è un bel baracchino, non prende colpi, e devo, oggi ho fatto delle parature con uno strumento che mi hanno prestato, infatti già domani mi hanno fatto la macchina, dove potrei costare una barca di soldi con lo strumento, però non riesco a... C'è una cosettina che da fare, che siccome ho creato non l'ho mai fatto, non ne faccio fare a nessuno. Allora domani ho già telefonato, domani sera devo portare questo amico, lo fa lui, che c'ha Salvatore Buono, c'ha tutta roba, questo laboratorio qui, che ce la fare un cambio, spostare una resistenza, per aumentare i watt, capito? Così dice il manuale, quindi la facciamo così. L'unica cosa che sto facendo è dare una decina di watt, 10, 20 watt, perché ne ha 4 e non mi soddisfa. Ma quella che sta l'ultima della sua quella però quella che... Ma perché non nascono così, io lì, no? Nascono così, praticamente sono delle radio HF per allenatori che quando le vendono chiuse. Tu guardi sul manuale, c'è praticamente da tagliare un diodo, tagli il diodo e va a sintonia continua, quindi vai dove vuoi. In AM è una radio favolosa, perché è l'unica radio che modula bene in AM. Ha un problema, che più di 30 watt, 30-40 watt in AM non ti va modulati in positivo. Se tu momenti ti va negativo, allora ci va a fare un'altra modifica sullo stadio finale, che io ho sempre fatto a tutte le mie radio che ho venduto e che ho avuto. E basta. Quella di Luigi era già stata fatta quando lui l'ha comprata. Quando l'ho presa io gli ho fatto solo alcuni ritocchi, alcune cosettine che volevamo fatte e basta, però era già modificata. Per averla a questo livello la devi modificare, altrimenti non è. Vai bene lo stesso, però non hai questi risvegli, ecco. Io non ho abituato ai baracchini o al contrario di me, capito? Quando io sono abituato a queste radio, perché io dal 1986 ho iniziato a parlare a queste radio, le ho avute tutte, della serie che le ho avute tutte, valvolari e transistorizzati. Quindi quando uno è già abituato ad avere queste radio, tu ti metti il canale a fianco e non mi fai un baffo, è chiaro, io sono abituato che nessuno me lo fa le palle. Quindi col baracchino, questo vecchio è molto selettivo, però sai, quando sei già 3-4 canali vicino ti sento, la senti il fruscio, senti non proprio lo splatter come i baracchini dell'Alan 48, quelli piccolini, perché sono già baracchini grossi, però lo senti, a me l'hanno prestato, non capite? E allora continuo, uso sempre questi perché non sento niente, nulla. Per sentirti ti devi mettere, guarda, io sento Franco che si va a 50 metri se si mette nel canale a fianco, allora lo sento, ma se si sposta due o tre canali non lo sento più, quindi immagina, ti hanno una selettività allucinante. Stavo usando l'amplificatore, ho spolverato un vecchio amplificatore che avevo molto molto grosso, e ne avevo un altro da collegare qua a questa radio che però non dà più di 300 watt, una cosa del genere. Allora mi sono comprato le valvole nuove, 5 valvole nuove, l'ho rimesso in sesto, io lo stavo provando, e anche oggi lo sto tenendo attaccato a volte. Non le sto dando il massimo, comunque già va. No, attrezzatura già ne ho, la cadina non manca, è che te ne passa a volte la voglia, capito? Te ne passa a volte la voglia di metterti a provare, a fare, a competere con qualcuno, a fare prove, le abbiamo sempre fatte, non c'è più quella competizione di prima, va. Non c'è più, c'è molta gente romantica, molta gente che pensa che lo fai per male, invece si fa solo per fare prove, per scherzare. Qualcuno lo fa ogni tanto a metterci due canali a fianco, a fischiare, a fare, a me non mi purica neanche il pelo per effetto, è come che non esiste, è come che non me ne accorgo quando c'è il baracchino acceso, allora che ho. Quando parlo qua c'è sempre il baracchino acceso, il ricevitore acceso, l'altro che è acceso, sui canali dove c'è il QSO, una col dipolo, una con l'antenna interna, qui lo so quello che dicono, quello che fanno, e non... anche oggi che stavo salutando a Torellino, col baracchino, mi hanno fischiato sopra, so chi è ma non me la fatti lunga, capito, non sono ragazzato della minchia, non me la fatti lunga. Sembra che qualcuno ci abbia con me, io non ho fatto niente a nessuno. se qualcuno c'ha qualcosa lì, infatti me lo dice invece di chiaro di persona domenica, sicuramente. Perché tenere questi rospi in bocca non è che gli piace molto. Capito? Io sono fatto così. Non ho paura a nessuno, quando devo parlare la gente parla apertamente, se devo dire che sei imbecille, te lo dico di persona, e non mi nascondo né dietro il microfono né dietro i muti. Quindi non ho nessun problema. Ho visto delle cose che non mi piacciono, non capisco il perché. Vabbè, chiariremo. Ma quando uno sa di essere interrotto, ha fatto qualcosa di... ma io non ho fatto niente a nessuno, quindi sono tranquillissimo con la mia coscienza, perciò non ci sono problemi, capito? Allora vediamo che cosa c'è, cosa è successo, cosa dobbiamo dirci, perché non ci sono problemi, uno per sottare a quale problema. Ti ripeto, ribadisco che a me, sinceramente, non manca niente, non ho grosse bisogno di nessuno, sinceramente parlare. Posso andare avanti anche da solo, vicino ne ho tanti e non ho molta morbosità in questo periodo, sinceramente, non è che a volte mi piace stare anche da solo qui. L'amicizia quando c'è bisogna tenersela, e se poi uno sbaglia, sbagliare umano, si può anche parlare, no? Non fare i dolori, cioè fare finta di non sentire, cioè, bambini della zia fanno altre cose. Più la coppia delle pingosi, che rispetto a me, noi mi piace assai, è quello un periodo che non mi piace, cioè non me la fottiamo nulla, capito? Ci fosse stati altri periodi, forse perché sono molto rilassato in questo periodo, non ho grossi problemi. Però lo scorso l'hanno bloccato, l'hanno fatto, uscito da quella roba, ma era bella piena, non riuscivo a tirarmi i piedi, tornare a casa, per carità di Dio. Fattura una dietro l'altra. E in radio ero molto pungente, adesso sono tranquillo di versante, ma effettivamente devo dire, sto parlando con molta serenità, però sono cose che hanno fattivo da tutti voi, e delle amicizie che voi mantenere, ricordate la poca amicizia che c'è, lo scambiare eccetera, e poi i nuovi si spacciano per contatto, le varie sono contatte. Cose dette o riportate, sai quelle sono molto pericolose. Queste sono le cose che mi danno più fastidio a me, quando uno va e porta, e soprattutto quando uno fa raggio, quello mi capovolge, mi danno fastidio allucinante a me, quando uno racconta ballo, che si nasconde, sono lì, invece non sono lì, sono qua, invece sono qua, come se la gente è imbecille, che, capito? Quelle sono cose che a me mi urtano, le balle allucinante. Prova per essere sopravvissuto, devo dire che è forte, se ne è forte. così Enrico, così è. E anche nel lavoro è la stessa cosa, c'è tante volte nel lavoro, queste persone, sai, ci sono persone nel lavoro anche che sono più attaccate, persone che sono meno attaccate, allora le gelosie qui e là, è sempre la stessa cosa. Chiama fama, Il caculo, quello è quello che rimane sempre nell'azienda. Thank you. di massima. Il discorso lavorativo è molto semplice, è molto molto semplice. Potrei ripetere, cioè c'è quello che l'ultimo arrivato può fare più strada di uno che ha 15-20 anni di servizio, perché o è caculo, o è parente di uno di quelli che comanda, o è intoccato da magari un esterno politico e quindi è intoccabile, perciò deve fare determinate cose in più. Anche nel mio settore così. Tu immagini che io nel mio lotto, il lotto dell'Angoma e Comina, sono il più anziano, e molti mi assunti con questo cacchio di cambio ESA Fabanova, sono già stati trasferiti a Sassari, e io dopo, conta, dal 96 che sono arrivato lì, nel 98 ho chiesto il trasferimento, ancora sto aspettando il trasferimento, e molti miei assunti invece sono già chi è frutto rurale, chi qua sa essere a canica, chi in ufficio, chi è detto come frontaniere, invece siamo gente di agenti, trasendo macchine, trasendo lotti. No, io lo sono speso lì per andare a Castelsardo adesso, io mi andavo a Pietras, adesso sono a Castelsardo, ma non sono fisso a Castelsardo. Sono in prestito praticamente come lotto, però mi si è detto il flash, quindi molto probabilmente non andranno a per il flash, quindi io devo arrivare al posto di lavoro con la mia macchina a spese mie, poi se mi devo asfaltare prendo la macchina in servizio, quindi un'agenzia di due. Tutti fatti in una maniera, cioè già tutto pronto, capito? Non già tutto prestabilito. Tu vai lì, in 2-3 mesi fai questo, un momento sopra, stai zitto, capito? E poi vedi, i primi 2 mesi, 3 mesi, fatemi tutti gli sciolini. Al terzo mese, come dici, ancora c'è da andare, ma a me stai dicendo, e vai 2 fatti io. Perché sanno già che sono coperti, capito? Sono coperti, non è successo. Io avevo delle responsabilità nella zona di Petruas e uno purtroppo mi ha risposto così. Quando ho detto al mio responsabile che non lo volevo più nella mia squadra, mi ha detto no, te lo tieni e stai anche zitto, perché sennò molto probabilmente trasferiscono a te. Questa è la risposta. vogliono quello, vogliono quell'altro, vogliono il mezzo, vogliono i soldi per viaggiare, senza la manco come fa a travagliare, cioè purtroppo i sacrifici bisogna farli. Inizialmente io capisco che per spostarti devi avere dei fondi, devi avere sì un mezzo, eccetera, però cazzo, perdere il lavoro per coglionate non è che vada bene, ecco. E quindi si cerca di fare il sacrificio di arrangiarsi e di andare avanti. E questa è una cosa che fanno tutti e non è che lo fa di misura. Sono degli asili e delle scuole materne molto, molto pulite, che aspetta funziona alla grande, però sono veri, 250 euro per mantenere un figlio all'asilo, Santa Maria Madre Nostra, vai a cambiare salute. Tirava fuori, c'era un vobulatore di ultrasuoni, noi ci mettevamo la moletta, i tappi in cera, ed era di, mi pare avesse neanche un watt e mezzo. Ma dovevi vedere, cani a 4, 10 metri, 3 metri, come schiacciavi, davano un salto, come se gli davi un calcio, una tiralasticata, e cominciavano a scappare gridando. No, di spuri e di onde che invece si sentono, ce ne uscivano, o proprio silenzioso? No, non sentivi nulla, sentivi una specie di nelle orecchie, un peso nelle orecchie, nonostante i tappi di cera. Era solo usavo un coso a trombetta piezoelettrico della Motorola, un tweeter, e dentro ci sbattevo queste frequenze modulate che, se non ricordo male, variavano 27.000 a 40 a 44.000, mi sa, varia. Quindi c'era il rischio quella, se te lo metti nell'orecchio, trova la frequenza di risonanza del timpano, senti il botto più forte della tua vita e ti spacca il timpano. Micidiale. Noi siamo, ce l'abbiamo, però vabbè, ce l'abbiamo, siamo ancora più zitti che ancora l'aria. La frequenza dovrebbe essere sui 6.000, mi sembra, 6 kHz. Vabbè, quello già fa, serve a fare agitazione molecolare. Quando trovi cosa trova proprio, e poi coagula anche il sangue in vena, quando arrivi da 37 a 42 mila con le frequenze, se porte, se c'è una decina esatta, un paio di metri, ti coagula sangue nella retina dell'occhio, una cosa, quindi quando uno lo bombardi così, va in ospedale, ha avuto dei trombi, ha avuto una trombosi, invece l'hai creata tu con questi, con gli ultrasuoni. Ah, quindi sono anche pericolosi, non lo sapevo. Non lo sapevo. Ascolta, invece quei LED laser se ne trovano? Io voglio, in internet ce ne sono potentissimi. Un tempo si usavano per discoteche, poi li hanno vietati, allora li hanno ripotenziati, ma poi c'è, trovi in internet le modifiche per tirarli fuori tutta la potenza. Ma quelli che noi vediamo con quelle pilettine, magari nel telecomando mio, dal videoproiettore c'è il puntatore laser, che frequenze avranno? Frequenze laser? Possono già far danno? Beh, certo che sì. Si fa danno all'occhio il lettore laser delle ottiche per i CT, DVD, eccetera. Può far danno quello? Caspita, se ci va ti becca in pieno, più di qualche bastoncello ti salta nella rete. Capito. Ma poi ho capito una cosa, ma quindi emettono il raggio anche quelli che devono solamente leggere? Cosa fanno? Emettono e leggono? E sono frequenze, una lunghezza d'onda invisibile, certo che emettono. Ma si vede il fascio, no? Alcuni sì, secondo la frequenza, secondo la luce si intravede, altri non si vede quasi nulla. E infatti, la qualche volta le apro per pulirle, fatti c'è sempre scritto, attenzione, attenzione, warning. Io ti grido. Che fanno quello che è quello del puntatore? Sì, sì, no, no, quello del puntatore è meno intensità ed usano frequenze più basse, più vicine all'infrarosso. Infatti sono visibili. E invece quello del masterizzatore? Quelli sono più maledetti. Quello dovrebbero già iniziare a bruciare un po' il supporto. Caspita, secondo quanto è, centini il coso davanti, ci tieni il coso davanti per parecchi secondi cominciano a farci sentire essi, e puoi usare per toglierti i porri. Ma dici che lo senti nella pelle, cavolo? Certo, se lo lasci molto lo senti sì. E facciamo un bel fascio laser e lo puntiamo nel cielo. Puntiamo la luna da parte in parte. E comunichiamo via CV2 con laser. Conviene. Beh, si può fare. Anche se non ci vediamo, lo punti in alto. Cioè, se non c'è orizzonte ottico. Roberta. È presente Roberta della pubblicità in TV? Sì. Uno che quando ti vede, ti vede. E se non mi pare ti fanno dei bicchi. Cacchio. Pronta? No, mi lascio cosa mettermi. Pietro mi sarà il figlio, ma... Boh. Pietro già c'ha le idee chiare. Continua. Quando vi spogliate andate sempre a me. nudo o ci devo andare? No, no, sei già nuda così, vestiti e vai. No, no. No, no, guai a te. Se c'è qualcuno debole di cuore ci lascia la pelliccia. Di che? Dimmi. Quando una tipa è un bebbona, che un tipo guardandola esce di testa e schiatta, cos'è? Omicidio colposo. Questa sarà bella. Per me è registrato. No, io penso che sia fatto con scopo, perché una sapita allora, vedi, preparando, facendo, quindi non è colposo, mica. Anche prove di tappo. Beh sì, perché stanno lisciando, tirando, così, per tenersi gli occhi di fuori alla gente. Mia moglie lo dico sempre, me ne sto uscendo con la fidanzata, non vuole. Mi sa che qualche libertà me la prenderò adesso fra un po'. Io telefono, gli dici c'ho una riunione di condominio. Una riunione di condominio? No, che andiamo a giocare a biliardo. Io via le porto a Torres. Io vado lì, c'erano tre amiche mie marocchine sotto. No, erano ragazzine di 9 anni, a quell'età non ci pensano. Anche se uno aveva gli stivali bianchi, l'altra rossi. O dandi fora. Quello è per far vedere che c'hanno i baffi. Esci che vado là a chiedere il consiglio, esci. Attenta, che quello è un bambino bravo. Sì, già è bravo, già è bravo. Cracra! Che strisce? No, io solo quadretti! Mica! Bene! Non lasciarci soli! Che ci perdiamo! Non hai idea, mica, non hai idea! Ma qui già deve fare riassunto! Adesso gli faccio una foto e te la mando via email. Io. Ma già c'è ancora il robusto in te. Commissione di 1,90 m. Sì, questa pubblicità in TV di Roberta. Pubblicità di che? Roberta, la pubblicità di mutandini. Ah, di quelle, tipo Cotonella. A quel livello sì. Adesso escono tutte e due e le arrestano. Bisogna uscire col portare. Ho detto io che sono pericolose. Altro che guida in stato di ebbrezza. Vedi, se porti una persona così in macchina è più pericoloso che guidare dopo aver bevuto una bottiglia di birra. No, due bambine così le fai passeggiare tutte e due assieme lungo una strada, più di uno si sbatte a destra, manca, qualcuno ne butta un pezzo di marciapiede. Esatto. Ho visto la luna! Che erano due mezze luci. A proposito dei bastoncini, l'altro giorno stavo guardando, sì, il proiettore quando la accende non si accende subito, forse fa il preriscaldamento. Stavo guardando la lampada, e non si accende, si è accesa di colpo, mi ha lasciato il bianco per 5 minuti. È logico che regola tutte le correnti, che devono essere a regime le tensioni e poi certo. Ma fa male, che cos'è al plasma? Che cos'è? Sì, sono lampade alogene con frequenze particolari, con drogaggi particolari sul filamento per avere una temperatura a colore bella, neutra. Forse ha detto che c'è una cosa all'oxeno. Eh beh sì, normalmente molto già. Comunque tu dici che se li vale tutti i soldi che costa la lampada, o no, è una trovata così? È un po' sì, un po' no, no, già sono cose fatte in particolar modo che sono costose, già ci sgobbano su, le case, al limite guadagnano poco quando te lo vendono, ma poi al primo accessorio, alla prima manutenzione, più che i centri che lo fanno, proprio le case, non... A volte noi cambiamo una lampada, cosa abbiamo? 60 euro di lavoro, di prendere, mettere, fare, stai anche due ore lì a smontare, a piazzare, provare, fare tutti i test, verificare tutte le tensioni, e quelli si pappano un sacco di soldi senza far niente. Infatti, comunque ho visto che viene in modalità ecco, si vede benissimo, tanto bene o male quando lo guardi al buio, certo lo meno io, poi magari c'è qualcuno che li guarda anche di giorno, allora lì magari sfrutti tutta la luce che hanno, la potenza che hanno, di luminosità, ma io vedo benissimo anche in eco mode, quindi speriamo che almeno 3000 ore le faccia, come dice, che dice 2000 a piena luce e 3000 in eco. E poi vediamo, poi stavo guardando, l'idea della vita l'avevo comprata, non ne hanno più, adesso costano, gli altri costano tutti sui 1000, 1500, 2000, questa era un colpo di canna, 500 euro, non se ne trovavo più con quella definizione, poi mi sono informato bene, su internet questi DLP, praticamente, lo saprai penso, come si chiama, il brevetto l'ha fatto la Texas Instrument. Ci sono tutti quanti marchiati Texas. Ebbene, no, ma perché i sensori... Sì, i sensori li costruiscono loro con quel sistema microspecchi, capito? Questo microspecchi DLP, tutto Texas Instrument. Poi ci sono quelli 800x600, quelli come il mio 1024, e poi quelli 1280, mi sembra 1003 qualcosa. Cambia la grandezza del chip, il mio dovrebbe essere da 55, poi sono da 70... E forse anche più grandi, mi sembra. Sta dicendo che lo specchio mi sembra che sia appena appena più grande o appena appena più piccolo di un micron. Come cavolo fa? Sono cose che vengono mosse con delle cariche elettriche, come viene spostato con delle cariche elettriche. C'è un micron è piccolo, come cavolo fanno a assemblarli questi affari? Vabbè che con i microprocessori, ma impressionante, come tecnologia impressionante, e comunque mi sono fatto una piccola cultura, e ho letto che i migliori in assoluto, a parte CRT, che comunque anche CRT ha detto che hanno diversi problemi, non è che siano il massimo per eccezione. Stavo leggendo che i migliori sono, vabbè, a parte questa storia del disco rotante, che poi a quanto pare il mio forse è un disco a più segmenti, o sicuramente a più segmenti, quindi da più velocità non si nota quasi per niente. Cosa ti volevo dire? Mi sta sfuggendo. I migliori sono quelli che hanno tre chip DLP, che praticamente si fanno ogni chip il suo colore primario. Però costano una barca di soldi, sono tre chip. Beh certo, hanno... sono riusciti a ottimizzarli, ci hanno lavorato su, esistono già da parecchi anni, ci hanno lavorato su e con diversi circuiti sono riusciti a ottimizzare, a minimizzare i difetti nativi, diciamo. Sì. Ma guarda, l'ho letto, è spiegato molto molto bene sull'enciclopedia, quella che c'è su internet, quella gratuita, Wikipedia, spiegato molto bene. Poi ci sono tutti gli LCD, anche lì spiega che vabbè il problema degli LCD come me tutt'ora i colori, mentre gli LP come colori ce li ha tutti, mi sembra 16 milioni. Le LCD di meno, però se usi quelli che hanno tre LCD riesci a ottenere molti più colori. Beh sì, già è così la musica. Sì, su Wikipedia, diciamo noi, come la vuoi, sì, è completa, poi aggiornano istante per istante, legge una cosa, rientra un'ora dopo, casomai hanno ritoccato, aggiunto qualcosa. Sì, infatti, poi c'erano anche quegli altri LCOS, quegli LCD su silicone, non ne ho capito bene come che cosa cambi, però dicono che vanno molto meglio, che ti costano un bel po' di più. No, l'Alcos costa molto meno del sistema, di quel sistema costa meno, infatti è pieno di retroproiettori a 60-70 pollici in America. L'Alcos è brevettato dalla Philips e costa meno, risoluzioni superiori, non hanno la stessa brillantezza, ma gli si avvicina molto. Sì, no, diceva che l'Alcos è migliore forse del CD normale, parlando sempre di singolo chip. Poi vabbè, quando c'è tre chip va molto meglio per tante cose e così via. Poi CRT, vabbè, sarebbe il sistema analogico, quindi più veloce, più tutto. No, va molto bene. Comunque sono soddisfatto di quello che ho preso. Secondo me ha avuto anche un po' di culo, perché per quel prezzo lì mi aspettavo molto meno. Come definizione è ottima, la gratta praticamente non la notti, ti devi proprio avvicinare tantissimo alla parete per vederla, è veloce, i colori sono perfetti, l'effetto rainbow, lo stesso ho letto che si nota molto facilmente dove c'è molto contrasto bianco e tipo le scritte che si muovono, cose del genere, e non si nota quasi per niente, quindi l'hanno fatto bene, dai. Sì, ma un po' tutto, lo usano molte case, poi molto usato perché dà sì, dei contrasti, delle luminosità elevate, quindi molto usato come sistema. Sì, l'unica cosa è che praticamente proprio lo usi a una durata, quindi adesso cambiare la lampadina, quando dovrò cambiarla mi costerà più della metà del prezzo di quello del proiettore, vabbè. Non ci devo pensare, che comunque ho già avuto una botta, pagano quel prezzo. Se avessi pagato di più, insomma, l'avrei pagato di più, e avrei speso sopra la lampadina, poi avrei detto, ne vale la pena. In questo caso l'ideale è comprarne due, si butta una lampadina così l'altro. Guarda, tu fai una scossa. Gli attacchi non servono mai, il piccolino. Ogni volta che lo usi ci metti un euro. Stai tranquillo, quando serve la lampadina ce ne di più di soldi. No, vabbè, ma... ma sempre sono quelle cose che usi tanto il primo mese, il secondo mese, poi ti usare sempre di meno, magari poi 3.000 euro te le fai in 5 anni. Sto parlando del mio proiettore di diapositive. Quanto l'hai usato? I primi anni che avevo il Prolo piccolino, ne ho fatto tantissime, mi pare che ho 600 diapositive, 640, no, 4 valigette di più, sono un migliaio. E foto ne ho più di 6.000, tutte, ma perché avevo la macchina manuale, quindi sovraesponevi, regolavi lunghezza di campo, lo diaframma, sfocavi lì, allungavi lì, accorciavi, facevi pellicole di varie ISO, quindi era molto creativa, obiettivi di tutti i tipi. Poi mi fregarono la sacca, proprio i giorni di inaugurazione di Città Mercato, stavo andando giù a Monte Oro, dovevo fare delle foto a degli amici, sono entrato a prendere il pane, a Città Mercato aveva appena aperto, mi sa era un giorno, erano i negozi chiusi, c'erano solo loro, appena Italialingua, ho detto stammi zitto, niente, entro, compro il pane, esco, 5 minuti, mica mi sono accorto di niente, arrivo in campagna, vado a prendere la sacca, non c'era la sacca in macchina, ma roba la matti, guardo, e non ti vedo lo sportello a parte opposta, tutto svirgolato. Inshallah, questa è Città Mercato. Quando l'hanno aperta? Quanti anni? 20 anni è aperta. E allora, poi me ne ero comprate alcune di c'erano l'ora di moda i polacchi e i russi, di quelle Zenit, una Zenit e un'altra, ma non c'era niente a fare, per anni ne avevo una seria con tutte le ottiche, proprio è stato un colpaccio, guarda, non, per carità. Sì, comunque le diapositive si vedono molto bene, molto molto bene. A me una cosa della macchina fotografica, la pellicola a me non è piaciuta, perché molti colori escono grigi, boh. Per esempio se tu fotografi un bel cielo azzurro, poi guarda sulla carta fotografica, di azzurro non c'è niente, rimane sempre un grigiastro, strano, non è fedele. A meno che non ti fai le diapositive e poi la diapositiva te la stampi su carta fotografica, allora sì. Non lo so. Solo che i cosi ti permettono di sbagliare due o tre esposizioni, sovraesposizione, due o tre sottoesposizioni, le foto, nella pellicola delle foto. Le diapositive, se ne sbagli mezzo diaframma in più o meno è basso. È molto difficile fare le diapositive, devi azzeccare tutto in base alla luminosità. Io usavo sempre 25 ASA perché hanno una risoluzione, puoi fare poster da 2 metri per 1 metro e mezzo, quindi usavo sempre quelle e le facevo in piena luce, e poi con la pratica che avevo non ne ho sbagliato una, però è molto più difficile fare delle diapositive eccellenti perché non ti dà possibilità di correggere, come l'impressione. Sì, così. Vedo che hai studiato anche tu in fotografia. No, io 25 non le ho mai usate, ma le diapositive ne ho fatto sempre poche perché proprio per quel motivo lì, perché devi azzeccare proprio la luminosità giusta, altrimenti ti viene troppo sovraesposta o troppo buia. A meno che non usi una bella macchina col sensore, là non sbagli. Io vabbè, usavo la Nikon manuale, non di quelle digitali, però analogica, però un po' assistita, automatica o semiautomatica, come volevi tu. E poi facevo foto astronomica e lì il discorso della macchina non conta più, lì conta mano ferma, inseguimento, esposizione lunghissima, e spera di non bruciarle. Beh, bloccala o gli chiamo i carabinieri. Cosa? E queste stanno entrando e uscendo in istanza nure, che non fa? No. Vabbè, i carabinieri chiamo. Boh, non si fa così. Non fa. Sto andando al Sergio. Tu le accompagni? Sì. Fino alla porta? Fino dentro, mi faccio un giretto, mi bevo una cosa, me ne va. Fa un po' vero, va dal letto. Davvero vecchietto. Vabbè, ma tu come te le fidanzate che hai, giusto che ti riposi un po'. Non sei come me. Scarichi le batterie. Questo è il camion che è uscito fuori strada, sulla strada nostra. Un camion dove? È andato da Perugia, c'era stamattina un camion, ma è successo ieri l'incidente, c'è stato anche qualche morto. Proprio giù una cunetta, con il rimorchio e tutto. E ho capito. Perché stai con la strada? Sempre qualcosa c'è. Perché passano un sacco di macchine prima o poi. Poi i famosi fotografi, lo sai che li hanno puniti? I fotografi di Ardera? Esatto, l'hanno fatto allora il verbale. La polizia? Quelli dell'ANAS. No, non lo sapevo, però che erano fuori legge e te l'avevo letto. Sì, ha detto che è venuto da noi. Un suo cliente che lavora lì per la strada dell'ANAS, si dice che è responsabile da Sassari, hanno avuto un sacco di lamentele, allora siccome non la potevano fare, come dicevi anche tu, evidentemente hanno bisogno di autorizzazioni, cose del genere, mi hanno fatto un verbale. Infatti da una settimana scorsa non ci sono più. Lo so. No, lo so che, cioè, conosco la legge. Se è una strada provinciale o statale, eccetera, gli organi di competenza sono polizia e carabinieri. Cosa ci fanno i vigili su una strada provinciale o statale quando devono occuparsi di casini del comune? Erano fuori giurisdizione. Ma questo non te lo so dire, perché comunque una volta stavo leggendo su internet, c'erano le varie domande che facevano le persone come noi e qualcuno che rispondeva in un forum, e mi sembra che loro volendo possono fare anche multe nelle strade statali e provinciali, però si parla di multe, quindi se a te ti fanno la multa, cioè tu sei comunque obbligato a pagarla, però magari loro o devono chiedere autorizzazioni ad altri enti per poter installare la macchinetta, cose del genere. E comunque questo della massima mi stava dicendo che per molte cose c'è una burocrazia allucinante, per esempio questo camion che c'era fuori, cioè che stavano mandando la gru per tirarlo fuori, non potevano farlo perché ci vuole l'autorizzazione che dice che parte da Roma, sempre lì a loro, nell'ANAS, evidentemente per non creare intralcio o pericoli, insomma c'è tutto un iter da rispettare, questi arrivano lì, macchinetta, cosa, magari devono fare domande prima di piazzarsi lì e non la possono fare. Cosa di noi, cioè, se sono vigili devono pensare al comune loro, alle strade loro e ai problemi del paese, non possono uscire fuori dal paese e andare a far bottino. Sì, ma poi è una cosa secondo me anche pericolosa. Se tu notti la stradale, quindi quando fanno il cavalletto, raramente si nascondono del tutto, solitamente lo mettono in vista, non presso curve, ma sempre rettilini, questi si piazzano lì dietro la curvetta, cioè il tipo arriva in macchina, li vedi, inchiodi il colpo, ci scappa anche il morto, capito? Boh. Appunto, perché questi organi dovrebbero essere di prevenzione e repressione. Prevenzione, dove la prevenzione quando ti nascondi come una volpe dietro il cespuglio? E poi infatti dicono che se la cosa è fissa devi anche mettere un cartello. Quello non è fisso perché già un giorno all'altro si spostavano di 2-3 metri, poi ho visto che hanno anche modificato il cartello, dove stavano loro, no? C'era fine del limite di divieto, cioè fine del limite, sì, fine del limite di velocità in fondo, se ne hanno messo un altro più vicino, evidentemente per legge magari dove c'è l'incrocio ci vuole il limite, il fine deve essere entro una certa distanza, questo qui era un bel lontano il fine del limite, quindi loro in effetti sfruttavano quel ritrino dopo la curva per un bel pezzo, e magari tutti quanti li beccavano, quindi adesso il fine del limite l'hanno messo più vicino all'incrocio. Infatti se guardi ce ne sono due di fine limite. Scommetto che ti hanno distratto. Non mi stava sgridando Roberta. Perché volevo sgridarla le persone? Così. Così si impara. Sotto due le faccio a spillo. Jeans a vita bassa, senza vita. Le ore che si vestono, si spugliano, che sfilano, poi le picchio. E poi ci vuole porto d'armi, non può uscire così. La porto d'armi? Sì, il cartello carico sporgente. Cioè, deve mettere il cartello davanti, quello rosso, altrimenti non si può sbattere. Beh, non fa. Come quello che mette il windsurf quando si usavano gli alberi tutti su un pezzo. Vabbè, ma il cartello ce l'hai. Vabbè, il cartello ce l'hai. Non sai che cartello deve mettere. Carichi sporgenti. Troppo. Più che carichi sporgenti sono per l'arte. Nel suo caso divieto di sosta, c'ha due occhioni grandi lì, c'è il divieto di sosta, se no si fermano tutti lì. Basta con questi discorsi che qui sentiamo, brutti modelli tutti e due. Poi Michele io sono bravo. E lui il trainer. Le monello, io sono bravo. Pronto, se mica che usciamo. Mi stai quasi per convincere. E preparati che ti convinco dopo, sto passando a prenderti io, ti accompagno io, quindi manco in marcia la macchina. Cioè. No, sono lugubre, mi devo vedere una stuccata, c'ho la barba lunga o... Oh. Vabbè, ti metti una maglietta e ti scrivi col pennarello, sono stanco. No, capisci, se non c'è niente è tutto incentrato. No, ce l'ho chiamato la parte della calante. No, non voglio visto. No, io sono tutto agitato. Camomilla a te. Io già ne bevo poco. Camomilla, valeriana, quell'altro lì, quella miscela di erbe. Se di Vax e l'altro che gli somiglia, c'è... Guarda, una che prendo quando viene il polline, quando c'è il polline in primavera, che a dire che ti calma è poco, proprio ci scendi, ti addormenti. No, ma uso anche le capsuline da 5 mg, ho 10, le alterno. Faccio 3 giorni a 10 mg e 3 giorni a 5 mg di melatonina. Di bravuro. No, quello è già qualche anno, grazie a Dio, non me la mia auto ne ho usato. Quella era 750 mg, sempre, purtroppo sono iperattivo. E quello sicuramente c'è una volta, anche se non c'è un altro di no, quando ho fatto il primo mese di militare. Tremendo. Sì, aiutano, effetto proprio come dovrebbe fare, non me l'ha mai fatto, però frenava un pochino perché sono proprio ormoni. Ah, guarda che stilavano quello che è andato a me. Ti dimenticavi. No, io gli ho provato anche lo piedosi, ma non... Sì, un pochino più addormentato, però crocro. Che poi noi dicevamo così, se la bromuro, chissà poi che cos'era, magari era qualche cos'altro. Qua sono loro, qua ti mettono nel latte. Se no già lo sai, se no diventava Sodoma. Ci hanno detto che lo fanno perché avevano paura che in libera uscita volessero le tipe del paese. Anche, ma soprattutto perché se no fra militari e militari... Oh! Tutti offrendo la paghetta, voglio un buco! No, poi vabbè, ti immaginati, già è deprimente la cosa, stressante. E poi soprattutto quelli che vengono arruolati non sanno che tipi sono, non li conoscono. Possono essere anche persone mezzo matte. Prima le devono conoscere e poi le osservano. Quindi all'inizio, per non rischiare, tutto lo stesso trattamento. Tempo di inquadrarli. Comunque è già divertente. Io mi ricordo il primo mese di militare a Viterbo. Cioè divertente, era un po' stressante anche, siamo stati 2 settimane dentro la caserma, non ce l'ho mai fatto uscire. Era grande la caserma, c'era tutto, cinema, quello che vuoi, però eravamo in galera. Quindi tu hai fatto il grande fratello. Quello che, marciando, file per tutto. Però una bella esperienza, già una bella esperienza, la rifarei. Come fanno gli svizzeri, ogni 4 anni, ogni 5, boh. Ogni 4 mi sa hanno un richiamo di 15 giorni, di un mese. La Svizzera fa così. Mi sono 4 gatti, ma ne hanno esercito. No, ogni 4 anni mi sa c'è un rientro di 15-20 giorni. Dice, la Svizzera è tutto uno stato fantasma. Non si sente mai, cioè vabbè, non si parla mai della Svizzera, non c'è nessuno che li minaccia, cioè perché sono tutti circondati da stati come si deve. Per forza, se è uno stato inventato dagli ebrei, sono manco la chiesa così, sono distaccati da tutto e da tutti, loro incassano soldi e Ah, veramente, guarda che ci confinano con la Germania, no, l'Austria. Austria, Francia, Germania, sì, c'è il cantone tedesco, quindi anche Germania o Austria. Sì, però sì, è ben nata da quei paesi lì, quindi Ma l'Austria almeno è una nazione con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti. Loro sono una mega banca piena di banche, di finanziari e case farmaceutiche. Poi hanno anche il contorno dei servizi, ma fondamentalmente sono una mega banca e una mega casa farmaceutica. Eh sì, sono proprio bene, beati loro. Beati loro. Noi invece siamo molto più esposti, Mediterraneo, Jugoslavia, Grecia, tutti questi stati arabi sotto. Ma sì, quel casino che ha fatto Putin. Ma è anticipato, ma è anticipato. Ma te l'ho detto io, che la gente che è sinistratta, fondamentalmente, lo spiega anche Wikipedia, che le cose sinistratte sono cose che non funzionano bene, che sono state rovinate da qualche agente esterno. E loro sono gente sinistrata, lo sono per davvero, in tutti i sensi, quindi c'è da aspettarsi di tutto e più. Gente che va a difendere l'Iran e l'Iraq, con tutti i casini che hanno creato, non ho commenti. Gli americani saranno dei pezzi di merda, avranno 3.000 difetti, ma certa gente, stai tranquillo, sono 100 volte peggio, che è il discorso che ho fatto per Berlusca, che poi non ho mai votato in vita. Quello sarà un coglione, un ladro, un mafioso, ma certe ammucchiate come ce l'abbiamo messi adesso sono 200 volte peggio, quindi toccava lasciarci la cacca che... Ma sì, tu oggi cosa ha detto? Che stanno producendo armi nucleari nuove, che sono separate come gli americani se ne andavano dall'Iraq. Poi vabbè, secondo me le sta combinando grosse e le stanno un po' nascondendo, perché da poco si diceva che nei cieli del Regno Unito c'erano dei MiG russi che avevano invaso lo spazio aereo e si erano alzati dei caccia inglesi per controllare i confini. E poi non si è più sentito a parlare, non ha più detto niente. E qualcosa sta succedendo comunque. Poi anche la storia della guerra fredda, che Putin arriva sotto in moto. Che è un anno che sta sclerando, è un anno buono che sta sclerando. E come tutta gente di quelle parti lì, non si riserva uno. Il più buono lo puoi mettere al fuoco e bruciarlo. E il peggio è che quella gente che della loro mentalità, delle loro sistemi di vita, delle loro teologie del cazzo, ce ne hanno riempito il mercato, adesso che hanno visto che loro si sono dati al social capitalismo e si stanno dando al libero mercato, qui chi ha creduto in quella politica si sentono degli orfanelli, dei figli di fallitti, dei discendenti di fallitti, allora si stanno dando al capitalismo anche qua, come tutti i grossi gruppi, da Bestar, Unipol e tutta via cantante. Si stanno dando al capitalismo anche loro, cambiandosi nome, cambiando nome per sciacquare via e far dimenticare del fallimento, che è stata una politica fallita e dismessa da 20 anni fa. Ma. E adesso ci stiamo ricambiando nome, e perché un po' di polisemi che credono che basta cambiare nome, che anche se dentro ci sono le persone marce e incapace, un bel voto non ce lo danno di nuovo. Ma vabbè, lì però secondo me la politica c'entra poco, Lì conta più il presidenzialismo, che lui mi sa che lo stanno per sbattere fuori, no? Forse gli ha finito il mandato, se non erro. E quindi lo sta togliendo qualche storia, lo sta facendo contento qualche generale, magari in modo che lo rieleggano. Perché poi non è da lui, non si è mai comportato così, non ho capito perché ultimamente sta proprio scantonando. Perché hai detto bene, hai toccato il noccio della questione, proprio per accontentare tutti quei pattiti, ma è il problema dell'Italia, non si riesce a governare perché dobbiamo accontentare il nocciolo duro di quei comunisti malati di mente, questa è la verità delle nostre sinistre. E io sono uno che per 30 anni gli ha dato il voto, ma il problema ce l'abbiamo, è inutile che stiamo a far finta e a minimizzare i problemi. Il problema va ingrandito e risolto, va messo a fuoco e risolto. Io sono tutti i giorni che vedo, devo vedere le cose, devo capirle e poi devo vedere cosa fare per risolverle. È un discorso, una distorsione professionale, ma bisogna vedere e capire. Invece siamo 50 anni che ci bendiamo gli occhi anziché vedere e capire, e la gente ne ha veramente le scatole piene di questo sistema del Menga che ha l'amministrazione. Sì, ma poi dovrà fare la modulazione che ti blocca. No, comunque vabbè, qua è, la politica è quella del meno peggio, eh. Non esiste il partito o il movimento che ti metta le cose al top, c'è sempre il meno peggio. Lavoro non ce n'è, non ce ne sarà, la benzina costa, costerà, l'energia costa, tasse ce ne sono e ce ne saranno sempre di più. Purtroppo l'economia a livello mondiale è così, cioè i paesi che stanno bene, tra cui noi, stiamo bene fino a un certo punto. Stiamo bene, ma ci abbiamo anche un sacco di spese, non c'è niente da fare. E questi stati qua, tipo la Russia, non penso che stiano meglio di noi, eh. Hanno tante cose, però vedi che sono bisticciando anche tra i loro ex stati dell'Unione. Si stanno prendendo la colpa di mazzate per i giacimenti, per il taglio di gas, il taglio qui, il taglio là, poi investono in armi, perché forse è l'unica cosa che riescono a fare bene, e poi a chi le vendono, agli iraniani, a questi qua. Loro dopo la storia di Solidarnosc, la Polonia, da lì è stata una telecamera che è entrata a filmare, far vedere il mondo che porcheria era quella politica, perché ci avevano fatto credere che era ben altra cosa, e qualcuno di quelli più duri vuole rimanere convinto che era una gran bella politica, invece hanno cominciato a sollevare coperchi, e quelli che abbiamo criticato tanto erano 100 volte meno peggio della politica che ci volevano far credere che era oro colato. Purtroppo, certo, stanno morendo di fame, ci hanno tutto sotto il culo, oro, metalli, petrolio, gas, hanno tutto, stanno morendo di fame con l'oro sotto il culo, con quel sistema non va, è vero, proprio così. Poi se tu guardi la maggior parte degli stati africani è così lo stesso. Molti hanno giacimenti, hanno petrolio, e la popolazione muore di fame, loro armi, guerre, uno invade l'altro diventa, un presidente diventa colpo di Stato, diventa presidente, tiene il popolo alla fame, armi, e così. Boh, dove andremo a finire non si sa. Comunque questa sera della terza guerra mondiale mi sa che sta avvicinando, perché se è vero che questi qui adesso stanno difendendo gli iraniani, gli procurano materia prima per queste centrali, armi eccetera, vai casino. Poi cos'è che ho sentito oggi? Siccome con il lavoro c'è sempre Sky, leggo le notizie, che i turchi hanno fatto, dice che vogliono entrare in Iraq e prendere il posto degli americani. Un altro stato, ma non possono stare dove sono. Quelli hanno le balle girate per la storia dello sterminio dei curdi, cioè sono cose un po' delicate. Io su queste cose, cioè, guarda, non spendo in sigarette, in beute, poi già giro, già diverto, già faccio viaggi, però la mia spesa grossa sono giornali di tutti i colori. Prima li prendevo solo rossi, ho imparato a leggere anche quelli grigi, quelli bianchi e quelli neri, e allora ho una visione delle cose molto diversa da come ce l'avevo sino a una ventina d'anni fa, che ero indottrinato e avevamo ragione solo noi, era giusto solo dicevamo noi, e oggi la vedo molto diversamente, oggi sono un pentito. Io guardo, io non c'ho il tempo di leggere, sinceramente, però intanto guardo la TV, guardo i telegiornali, quello europeo, quando ci riesco mi guardo anche Al Jazeera, perché c'era anche Al Jazeera in lingua inglese, con informazioni, perché poi imparate sempre a cercare le informazioni un po' da tutte le parti, no? Perché se ascolti sempre le cose nostre, la nostra TV, alla fine sai quello che ti vogliono dire e basta. Guarda, mi stavo chiamando, bianco un attimo. Thank you. Eccolo. Sei ancora? Vitto.